Quindi adesso andiamo a pranzo. So the meditation around eating gives us an opportunity to investigate the psychology around pleasure. Quindi il fatto di andare a mangiare ci dà l'opportunità di investigare sulla psicologia intorno al piacere. Our problem is to distinguish between enjoying something and indulging in it. Il nostro problema è distinguere tra il apprezzare qualcosa e nell'indulgere a questa cosa. When we indulge in something, it means we are developing a certain relationship with it. Quando indulgiamo, ci lasciamo andare a questo piacere, è come se noi ci entrassimo in una relazione con l'oggetto. And that relationship is that it makes me happy. È la relazione del tipo questa cosa mi rende felice. So my happiness now becomes dependent on something outside me. E quindi la mia felicità a questo punto diventa dipendente da qualcosa fuori di me. And the dependency can be because of some psychological need. E questa dipendenza può essere causata da un qualche bisogno psicologico. So I might take comfort in food. Quindi potrebbe essere che io trovo conforto nel cibo. We all know the delights and comfort of pizza. Tutti noi conosciamo la delizia e il conforto che sta nella pizza. A world without pizza is unthinkable. È impensabile un mondo senza pizza. So this is our connection with food, you see. E questo è il nostro collegamento con il cibo. Now the important thing is that this psychological process is the same no matter what pleasure or joy we depend upon in our lives. Quindi questo processo psicologico è lo stesso indipendentemente da quale qualunque piacere, su qualunque gioia o qualunque piacere noi dobbiamo dipendere nella nostra vita. Noi dipendiamo nella nostra vita. It's the same psychology whether it's to do with relationships or with art or with the enjoyment of the countryside or with spiritual joys. Doesn't matter. È lo stesso tipo di processo, che questo dipenda dal o che sia relativo a una relazione, all'arte o per esempio alla vita in campagna o una bella vista, oppure anche alle gioie spirituali. Now the problem lies in that when we are enjoying something in this wrong way, then we are in heaven. Il problema è che quando noi stiamo godendo di qualcosa in questo modo è come se fossimo in paradiso. And we don't connect the consequences of this wrong relationship with that heavenly place. E quindi non colleghiamo we don't connect the joys of this we don't connect the horrors. Ah, sì, no. Sorry. Joy, excuse me. We don't connect the horrors of well, consequences. We don't connect the horrible consequences. Quindi noi non riusciamo a fare collegamento tra le conseguenze orribili di questo tipo di relazione con with the joy itself. Sì, con questa gioia stessa. So we become dependent on it. E quindi questo ci crea una dipendenza da essa. Our actions can become compulsive and even addictive. I nostri comportamenti diventano compulsivi o anche si crea una forza di dipendenza. We get angry when we can't get it, frustrated. E quando non riusciamo a ottenere ciò che vogliamo ci arrabbiamo, diventiamo frustrati. We have grief when we lose it. E abbiamo un senso di pena, di dolore quando lo perdiamo. Running underneath all this wrong relationship is the anxiety of loss. E quindi sotto questa relazione giace questa ansia legata alla perdita. So hence insurance industry. E da qui nascono l'industria delle assicurazioni. In earlier societies there was no insurance. Nelle società antiche non c'erano queste agenzie di assicurazione. And the thing that we often don't connect is boredom. We don't connect with indulgence. Sì, è un'altra cosa che non colleghiamo con questa indulgenza, diciamo, questo lasciarsi andare piaceri, è la noia. So we it is true to say that consumerism is driven by obvious greed and self-indulgence. Quindi si può dire che questo consumismo è in qualche modo spinto, è alimentato dalla avidità e da questo autocompiacimento, questo voler godere delle cose, la ricerca del piacere. But the underlying engine is boredom. Ma il motore sottostante è la noia. Because every time we indulge something and it loses its taste, then we become bored. Perché ogni volta che noi godiamo di un piacere ed esso perde il suo gusto, noi diventiamo annoiati. And so to escape boredom, we seek a different excitement. E quindi per sfuggire a questa noia, cerchiamo un altro tipo di eccitazione. And our consumer society is always there with another product. E la nostra società consumistica è sempre lì con un nuovo prodotto. Hence, over 100,000 types of biscotti. E quindi da qui derivano oltre 100,000 tipi diversi di biscotti. Ah. When this stops, when we end up in a place where there is none of this excitement, then we begin to suffer this boredom. E quando noi ci troviamo in un luogo dove non c'è questo tipo di eccitazione, allora noi finiamo in questa noia. And this boredom can dig deep into meaninglessness. Potrebbe questa noia entrare profondamente nell'assenza di significato, nel non trovare un significato. A meaninglessness in life and moving towards despair. It's bad news. Non trovare un significato nella vita che ci può portare alla disperazione, e questo è una brutta cosa, sono cattive notizie. So our problem, our task is to develop the right relationship with the joys and pleasures of life. Quindi il nostro compito è trovare la giusta relazione con le gioie e i piaceri della vita. So here, during eating, begin by a correct intention. Quindi qui, mangiando, possiamo cominciare con questa giusta intenzione. Yeah, the food is for nourishing the body. Il cibo è per nutrire il corpo. If the fact that it tastes nice is a little present. Il fatto che abbia un buon gusto è un piccolo regalo. And so we enjoy it, but we're not eating for that reason, you see. Quindi noi godendo il cibo, ma non stiamo mangiando per quel motivo. So when you go up into the dining room and you have the sense of the food, you see, then feel the hunger. Quindi quando entrate nella cucina e avete questo senso del cibo, sentite la fame. Stay in the body. E rimanete dentro il corpo. And remember, some of it is appetite and some of it is good old greed. Quindi ricordatevi che una parte è giusto appetito, ma un'altra parte è golosità, avidità. Okay, so take the food that you feel you need. Prendete il cibo che ritenete necessario. And when you sit with it at your table, re-establish the right relationship. E poi quando vi sedete con il vostro cibo a tavola, stabilite la giusta relazione con questo cibo. As the food, as you use these noting words, very helpful, eh? Usate l'etichetta mentale, qui è molto utile. So lifting, moving, you know, placing on the tongue. Quindi alzare il cucchiaio, quello che è, muovere la mano, il contatto con la lingua. So there you have just tasting on the tongue, so put your attention right there on the tongue. Allora lì c'è il gustare sulla lingua, quindi mettete l'attenzione sul gusto sulla lingua. The process of tasting. E qui nasce il processo del gustare. After a few bites, you can, as it were, begin to recognize that the heart has now lifted, hopefully. E dopo qualche boccone vi accorgerete che il cuore ha cominciato a sollevarsi, si spera. So we have the body and the mind, two separate things. Abbiamo il cuore, la mente, due cose separate. And then remember that after you've swallowed, wait, you see, feel the sense of gratification. Dopo che avete ingoiato, aspettate, quindi aspettate questo senso di gratificazione. And then wait, you see, more, di più. E poi vedete questa voce interna che dice di più ancora. So this is desire. Questo è il desiderio. So remember, some of this desire is nourishing the body, and some of it is nourishing greed. So you have to be careful. Attenzione, perché alcune volte un po' di questo desiderio nutre the body. Il corpo, l'altro invece nutre l'avidità. Quindi attenzione a riconoscere. So we keep eating and we keep deconstructing this process. Continuiamo a mangiare, continuiamo a in italiano, decostruire questo processo. And make sure that after every mouthful you put the fork down. E assicuratevi che dopo ogni boccone appoggiate la forchetta. The habit is to keep shoveling it in. L'abitudine è quella di continuare a buttare dentro. Invece mettete giù. Then there may come a point in the meal where the body is saying enough, basta. Potreste arrivare a un punto del pasto quando il corpo dice basta. But you still have so much food. Ma avete ancora il cibo davanti. So now you have a moral problem. E qui avete un problema morale. Will you throw this food away knowing that so many people are suffering from malnutrition? Buttate via questo cibo sapendo che ci sono tante persone che soffrono della fame. Or will you eat it and do your body harm? Oppure la mangiate e fate del male al vostro corpo. My usual advice is throw it away and feel really guilty. Il mio consiglio è di buttarlo via e di sentirvi veramente in colpa. Then the next time you go to get some food, you think, oh, I don't want to feel that guilt again. La prossima volta che andate a prendere del cibo, vi direte, io non voglio più sentirmi in colpa. Così. And so the Buddha says that the feelings of guilt and shame are the guardians of society. Il Buddha dice che questo sentire, questa sensazione di colpa, il senso di colpa e di vergogna, sono i guardiani della società. They are not wholesome states, but they are guardians, you see. Quindi non sono stati salutari, ma sono dei guardiani. When you come right to the end of the meal and it's finished. Quindi è arrivata la fine del pasto, tutto è finito. And there is no more desire. Non c'è più desiderio. And maybe just at the end of the meal there is a sense of contentment. E alla fine del pasto c'è questo senso di appagamento. So here we have two states: a gratification when we're feeding, and when there is no desire, contentment. E quindi qui abbiamo due stati, la gratificazione e poi una contentment. Sì. Where poi there's no desire. Soddisfazione, nel senso che non c'è più la mancanza di desiderio. So these are experienced as almost the same. E questi si sperimentano, si provano come se fossero quasi la stessa cosa. But one leads to heaven and the other one to hell. Conduce a paradiso e l'altro all'inferno. So be careful, eh? Now after we've eaten, so there's a break, you see. C'è una pausa dopo mangiato. So be careful you don't let the mind wander. Attenzione a non far divagare la mente. So give the mind something to do. Date alla mente qualcosa da fare. So you can practice this abiding in the present moment, wide awake. Potete praticare questo dimorare nel momento presente, pienamente sveglio. Or you can do just gentle walking meditation, just up and down. Yeah? Oppure fate una meditazione camminata così tranquilla, su e giù. You can even practice walking meditation and doing metta. Practicing good, loving kindness. Potete anche praticare la metta mentre fate questa meditazione tranquilla. And If you feel tired, this is a time to have the age-honored siesta. E se vi siete sentite stanchi, in questo momento voi potete fare una siesta che onora l'età. I am an aficionado of the siesta. Sono un aficionado della siesta. Buon appetito.